Tanto un caloroso benvenuto al nostro pubblico, ma soprattutto anche ai nostri ospiti, perché stamattina, che è un lunedì, quindi una giornata insomma di avvio settimana e in un momento anche direi della giornata operativa molto particolare, alle 10 della mattina partiamo con la rassegna della cosiddetta settimana dello scrittore. In realtà si tratterà di due giornate molto intense, quindi dalla mattina alla sera, che vedrà una carrellata di ospiti, di scrittrici e di scrittori che presenteranno le loro opere accompagnati da dei moderatori. In questo caso la mattinata del lunedì, l'incipit ce lo darà, e lo ringrazio, Silvano Maggioni. Fagioni, sì. Con gli scrittori Bonato, Michelotto, che ho visto qui in sala, la signora, Dal Piai e appunto anche le opere di Fagioni. La biblioteca ha accolto questo invito ancora mesi fa, quando con Franca Carol si era pensato di trovare una, così, un'occasione per promuovere ulteriormente un'associazione scrittori di Bolzano, che già è attivissima sul territorio nonostante sia giovanissima, perché avete tre anni di vita, e si pensava di fare qualcosa insieme, proprio perché la biblioteca provinciale, che è qua sotto di casa, al piano terra, e vi invito anche a venirci a trovare, è una biblioteca che ha tra i vari focus quello di testimoniare e di documentare la realtà locale e anche di promuoverla. In questo caso vi segnalo che proprio oggi alla RAI, su Rai 1, sulla frequenza radio di Rai 1, tra le 12 e le 14, all'interno di Post-it c'è un programma, siamo arrivati alla nona puntata, che è dedicato proprio agli scrittori, alla narrativa altoatesina, e oggi ci sarà proprio il libro che scrisse Giorgio Dalpiani nel 92, o forse anche prima, Sognavo il trama. Ecco, quindi abbiamo preso anche in esame quello scritto e verrà appunto non solo discusso ma anche letto da un'attrice professionista. Quindi c'è l'intento da parte della biblioteca di lavorare, di favorire, di valorizzare questa energia e queste risorse che ci sono sul territorio, sono molteplici e che danno un segnale di vitalità e di salute anche da un punto di vista culturale straordinario. E quindi continueremo anche con questa rassegna e con la presentazione dei libri di questa associazione, perché di fatto, con nostro grande stupore, quando quest'estate abbiamo iniziato una documentazione sempre con la collaborazione di Franca e di tutti voi aderenti e partecipanti all'associazione, ci siamo accorti che tanti libri li avevamo anche già individuati, una copia era già presente in biblioteca, e quindi insomma la documentazione del territorio che stiamo operando funziona, ma anche la collaborazione con le associazioni. Non mi dilungo, il programma ce l'avete, e la mattinata scorrerà fino alle 12, 12 un quarto, insomma qua in questi spazi, per riprendere poi nel pomeriggio, nella metà del pomeriggio alle 16, proseguiremo e ci fermeremo fino alle 19:30, seconda di come si svilupperà poi il programma pomeridiano. Lascio la parola alla vicepresidente dell'associazione. Sì, ormai è stato tutto, per cui io ho ben poco spazio. Forse un'unica puntualizzazione è quella del senso, dello spirito di questa manifestazione. Noi siamo circa 85 complessivamente soci dell'associazione, però verranno presentati soltanto 16. Dico soltanto, ma in realtà è un numero anche abbastanza nutrito comunque. Perché? Perché la convinzione è che ci facciamo conoscere alla cittadinanza come gruppo, come diciamo privilegiando appunto l'aspetto dell'aggregazione piuttosto che privilegiare la solo, perché per la solo ci sono altre occasioni nell'arco dell'anno, a cura finalmente della promossa, a cura dell'associazione, ma anche poi privatamente da parte del singolo interessato. E questa qui credo che sia una puntualizzazione da fare, perché magari abbiamo un po' sacrificato i tempi di esposizione di ciascuno, ma proprio per sottolineare questo spirito della settimana. Ecco, io lascerei subito la parola a Silvano Fagioni, che è un giornalista di quotidiani, RAI, autore e regista di documentari, di trasmissioni, di rubriche televisive e appassionato di cultura e storia intereuropea e di cultura gastronomica. Ha scritto circa una ventina di pubblicazioni con Reverdito e poi alla fine della mattinata si autopresenterà e presenterà la sua ultima pubblicazione. Grazie. Grazie. Allora, intanto, benvenuti. Pochi vagoni, ma c'è la RAI, questo è importante, no? Perché c'è il TG, quindi ci sarà una grande visibilità comunque. Questa era una sorpresa anche per me e ringrazio l'azienda per cui ho lavorato tanti anni. Allora, quello che abbiamo bisogno proprio noi, poi passo subito a Enea per non rubare il tempo, è di visibilità, quindi tutte le azioni, tutte le iniziative vanno benissimo per farci conoscere. Non è giusto, direi, moralmente neanche, che solo i grandi nomi riescano ad essere presenti nell'immaginario collettivo. Anche gli scrittori, ce ne sono tantissimi in tutta Italia, mi diceva proprio il mio editore, che vogliono pubblicare, che sono disposti a qualsiasi sacrificio per pubblicare il loro libro. E questo è un segnale positivo in un momento in cui il paese è in difficoltà. Per Bolzano è una cosa splendida, dico la verità. Quindi saluto Equitalio, saluto Enea Bonato, torinese di nascita penso e anche di cultura, che si sta però affezionando sempre di più al nostro territorio, me lo diceva in confidenza l'altro giorno, e questo mi fa molto piacere, lui da una ventina di anni, è un personaggio che ha anche esperienza di teatro e che mette a frutto anche nel suo lavoro letterario, cercando anche alternative di linguaggio. Per cui passo la parola direttamente a lui per la presentazione delle sue opere. Grazie, grazie. Senza microfono, perché visto che farò una presentazione un po' in movimento, diciamo, se mi consentite, tanto diciamo la sala è adatta alla mia voce, penso che si sentirà bene. Ecco, nella brochure è presentato un testo dal titolo Diario Fantastico. Poi in realtà voi qua ne vedete due, appunto, due libri che sono I Believe in Europe e Diario Fantastico. In realtà mi sono concesso, quando ho iniziato a pubblicarli, un'edizione deluxe dove praticamente li avevo messi insieme, quindi sono disponibili le edizioni singole, però mi sono regalato, diciamo, questo piccolo gioco di poterli creare all'inizio in una versione appunto doppia. Ma questo perché? Perché io credo molto nella dualità delle cose e quindi nel confronto diretto, e quindi un testo è molto aperto e molto indica un viaggio, quindi una possibilità di incontrare tante persone. Grazie. Vi leggo, scusate un po' anche l'emozione, ma perché per me è veramente grazie all'associazione che mi dà questa possibilità di presentarvi. Diario Fantastico alla ricerca della verità. La verità l'ho sempre cercata nei miei viaggi, sempre, e ogni volta appena trovata, sfiorata, accennata in alcuni gesti o pensieri miei o di altri, tanti altri che incontravo, qualcosa mi ha sempre spinto a cercare ancora, sempre di più, mai sazio di sapere di più di me stesso, degli altri, di quello che ci è capitato nella nostra avventura di uomini e donne su questa terra, e di quante troppe volte abbiamo ripetuto gli stessi errori, costringendo il nostro inconscio collettivo a farsi carico di una mole così grande di dolore da ispirare sempre nuovi profeti a ricordarci i nostri pensieri segreti. Questo diario di viaggio cerca di raccontare i segreti del messaggio, cioè i sistemi attraverso cui il grande mezzo, la parola, ci insegna e ci ha insegnato quello che sappiamo, tutto quello che sappiamo. Ecco, io poi oggi, visto che mi è stato dedicato un tempo di mezz'ora, e ero ben sicuro che Franca avrebbe avuto un occhio di riguardo per il tempo, e quindi abbiamo qui un piccolo orologio, però io ho pensato che la poesia meritasse un tempo un po' diverso, un tempo un po' più antico, diciamo così, no? E quindi ho pensato che 20 minuti me li potevo dedicare con una clessidra, appunto, che è un oggetto un po' particolare anche del nome, perché clessidra viene appunto dal greco sottrarre acqua, quindi clepto, cleptomane, conosciamo molto questa parola, e idra è anche un termine che conosciamo. Quindi questo sottrarre tempo della poesia o della lettura, che poi è la cosa in realtà che, di cui mi interessa molto parlare oggi, in realtà sottrae da una parte, ma come vedete dedica a un'altra parte. Quindi c'è la parte forse più sotterranea, più sotto, a cui sicuramente la lettura, la poesia in particolare, può ridare quello che da una parte sembra che sia stato tolto. Adesso io, visto che io credo che la poesia possa parlare di qualunque cosa, quindi certo i sentimenti, certo tutto quello che riguarda le emozioni, certo. Io però, quando ho cominciato a scrivere, erano gli anni Ottanta. Negli anni Ottanta capitavano tante cose nella mia città Torino, tra cui qualcosa che mi ha toccato profondamente anche da vicino. E parliamo delle dipendenze, in particolare dalla droga. E lì nacque poi una riflessione su quello che sono le droghe libere e le droghe non libere, e ho scritto una cosa che adesso vi voglio leggere. Diciamo, l'ho poi stampata su una maglietta, ma questo lascio a voi immaginare perché l'ho fatto. Mi faccio e riparto di slancio. Non è mai troppa, è di tanti colori. Prima stai giù, poi ti tira su. L'unica non pesante, non leggera, vietata, non vietata, ma sempre strapagata. Lei ci abitua nelle città, lei ci abitua alle velocità. Niente multe da pagare, nessuna comunità da visitare, nessun genitore angustiato, nessun giudice arrabbiato. Stappa la bottiglia, strappa il ticket, apri il pacchetto, bevi, mastica, fuma, avanza nel buio scuro, che i capi l'hanno duro. Ecco. Quindi la poesia può trattare anche dei temi, anzi gli autori lo fanno, purtroppo generalmente non viene usata la poesia per parlare di cose serie. Perché? Perché la poesia richiede un raccoglimento, richiede un momento in cui ti devi fermare. Adesso chiaramente non parlo ai presenti che, se sono qua, amano la lettura, amano la poesia, scrivono, e quindi siete già persone che conoscete quello che io chiamo la terza stanza, cioè questo luogo che non è mio, non è di tu che ascolti, è un altro posto, un luogo in cui no logos, non c'è parola in quel luogo lì, quindi è un luogo pieno di aspettative. Quello che a me importa chiedere, anche se sembra magari ineducato chiedere, è la prima volta che vengo qui come associazione, ma io veramente chiedo aiuto agli autori, perché abbiamo bisogno di più lettori. Personalmente penso che questa è veramente una mission per noi importante. È imbarazzante quando vediamo i nostri dati rispetto alla Francia e alla Germania, voi lo sapete, non siamo un popolo di ignoranti, però siamo un popolo che non crede al libro come strumento da vendere. Dunque abbiamo tanti autori che hanno il loro portafoglio, possono fare certi lavori, altri che non possono farlo e sono sempre lì che aspettano. Adesso uscirà, è già uscito un libro che parla anche in maniera, diciamo, non retorica di questo, che Sara scrive di Frangipane, però non è quello il fatto. Dobbiamo, vi dico sinceramente, io ci credo, investire nel mercato della nostra competenza, però per cercare più lettori. Quindi quello che chiedo e chiederò a questa associazione di cui faccio parte per la prima volta è se mi aiutate ad aumentare le persone che leggano libri, oltre logicamente a promuovere le nostre cose. Ecco, adesso passiamo a un piccolo testo che è l'incipit, per farvi capire anche un po' come io scrivo e di cosa parla quello che io scrivo. Vi dico l'incipit del libro blu che poi è diventato I Believe in Europe. Questi testi sono parte integrante della performance di strada iniziata il 7 agosto 1963 a Torino con il titolo Enea Massimo Bonato. È proseguita a Orbassano, Rivalta di Torino, Kiel, Copenaghen, Merano, Amsterdam, Barcellona, Mazzorno Sinistro, Rovigo, Bolzano. Ogni giorno la nuova versione di performance sostituisce e rinnova la precedente. Ecco, probabilmente io vi ho subito investito con le mie cose. Se avete delle domande o volete alzare la mano, potete farlo. Metacerchio. E cosa fai quando vedi tutto, senti tutto, osservi tutto, ti stupisci di tutto, assorbi tutto, diventi tutto, tutto, tutto. Prego. In attesa che volentieri qualcuno ponga le domande, certo. Io mi rifaccio quello che mi hai detto l'altro giorno, che per... mi sentite? Sì, anche sì. Per incentivare la lettura bisogna anche forse cambiare il modo di presentare i libri. Tu già oggi lo presenti in maniera molto diversa, no? Molto spettacolare, direi, teatrale in senso buono, ovviamente. Sì, perché molte volte uno dice, si presenta un libro la solita palla, una roba noiosa, invece ci sono anche altri strumenti, altri metodi, altre possibilità in questo campo. Vuoi approfondire questo argomento? Allora, a me viene naturale fare questo, cioè io sinceramente ho ricevuto e ricevo tanto dai libri e per me la gioia non condivisa mi sembra sempre una gioia un po' limitata. Questo per me è un'occasione di incontrare altre persone che come me amano i libri e aumentare questa gioia e aumentare questo condivido. Quindi non è solo per gioco, diciamo così, che qui vedete un telo rosso che copre un'altra tela e vedete questa scatola d'oro che contiene o può contenere tante cose. È proprio che quando io nel 93 è nata la mia prima figlia, si chiama Chiara. In realtà questo libro io l'ho scritto appunto in Polesine, al paese di mio padre, dove mi ero trasferito e diciamo avevo cominciato a pensare adesso voglio fare solo lo scrittore. Quindi adesso io mi metto lì, ho già un po' di cose, adesso cerco di trovare lavoro come giornalista, ma mi sono messo lì un po' e sono messo subito a Rovigo con mia moglie. E mentre diciamo la nostra avventura è diventata poi un'avventura da due a tre, diciamo, quindi abbiamo concepito nostra figlia, io ho scritto questo libro e già lì poi mi ero reso conto, quando ho cominciato a cercare di produrlo a Torino, di tutte le difficoltà che nascono quando uno appunto vuole produrre un libro, vuole presentarsi. Sono passati più di 20 anni e questa cosa che ho detto a Fagioni, cioè di non ritrovarmi in quello che mi è stato proposto da vari editori, mi ha portato a dire io non faccio una cosa per forza, non la faccio, io ho la mia attività, posso vivere, non è che devo dipendere da questo, faccio altre cose, quando sarà il momento che mi sento io un po' più forte da poter io capire come presentare le mie cose, lo faccio. E così ho fatto. È nata un'altra figlia, sono cresciute e quando poi mi sono messo lì e ho detto adesso ho scritto un libro, ne ho scritto un altro, adesso lo voglio fare come piace a me. Non ho un editore che mi dice fallo così, fallo così, lo faccio come piace a me. E come piace a me è stato questo che l'ho chiamato Basker Book, che Basker è un termine inglese che vuol dire un po' il vagabondo, il dinger, come diceva mia nonna romagnola, diciamo, no? Il Basker è quell'artista di strada, è quello che magari mi scoccia anche la mattina, adesso qui magari ci sono veramente gli scocciatori, però insomma, questo Basker Book, giocando anche sul nome Book, Bonato, sul lato B, sui libri, diciamo, da serie B praticamente. E un invito anche, torniamo sempre, parlo direttamente a voi autori, siete così contenti di uscire da soli per strada? Siete così contenti di parlare da soli agli altri? Ma già essere in due non è più bello. Già avere un amico, un'amica vicina che ti ascolta mentre tu presenti o parli delle tue cose, non è qualcosa che vi può aiutare a non essere solo un autore, ma più uomini, più donne? Non ci perdete niente, non rischiate niente. Prendete il vostro libro e lo pubblicate con un altro autore. Avete il vostro libro e lo presentate con un altro autore. È già un passo avanti. E facciamo vedere agli altri che è possibile non camminare da soli. Perché la parola autore a me sinceramente non piace tanto. Piace molto gli autori, piace molto l'associazione. Ma non è perché, già guardate, c'è un bellissimo disegno degli anni 70, non perché io ho votato il Partito Comunista, non so se vedete quella foto bellissima, abbiamo qui anche una location con delle foto molto belle, ma perché per me votare comunista voleva dire sentire che da solo sto male. Però non voglio dipendere da un ticket, da una pastiglia, voglio dipendere da una persona che mi parla, con cui ho un dialogo. Io ho trovato rifugio nei miei libri, i libri che ho letto, però non creiamo altri che ci ascoltano da soli. Quindi, non ti piace la parola autore? Perché è singola. Per me l'autore potrebbe e dovrebbe sempre riconoscere, ad esempio, i debiti che ha, perché un autore sicuramente ha letto. Io sento tanti autori dire: io non leggo, io scrivo ma non leggo. Dico, mi sembra ancora vergogna. È come dire: papà e mamma non avete fatto rito, è come dire: no, noi nonni non ci siete stati. Cioè, è una cosa veramente. Però il mio ego deve prevalere. Cioè, io in questo momento voglio affermare a me stesso che sono felice, lo affermo, però contro gli altri. Io, ognuno ovviamente, non è che voglio fare un trattato di psicologia, ognuno è felice a casa sua, diciamo così, no? Però a me sembra, da quello che vedo in giro, che possiamo essere un po' più felici in maniera duratura. Quindi non tic, tic, tic, ma un suono continuo, un suono bello, che ci avvolge, che ci accoglie. Ecco. Siamo già venuti? No. Pensavo che fosse vicino per il ecco, io, beh, a parte che ringrazio Claudio perché è colpa sua che sono qua oggi, perché se no mi ha convinto a fare questa presentazione, ma un anno e mezzo fa, poi appunto rispondendo alla domanda, ho trovato poi un po' di questa convivialità intellettuale, prima nella libreria Librarsi di via Milano, che è un posto che semplicemente sono entrato e non mi hanno fatto domande, mi hanno detto: hai dei libri? Porti da presentare. Sono andato, ho trovato altra gente che mi ha detto, non mi ha chiesto cosa facevo, mi ha detto: sentiamo, cosa fai? Va. E poi da lì, poi gli incontri ovviamente sono anche quelli che ti portano ad altri incontri. Un anno fa si è creato questo caffè letterario Lettera 7 all'Aires, e lì un altro piccolo pezzo di questo mio sentire, che non è una strada sbagliata. Cioè, sento veramente, vi dico col cuore, che non è una strada sbagliata. Per cui io, in realtà, pur con un po', diciamo, l'emozione, l'inizio di fare delle cose che non ho mai fatto, però veramente sento che non è la strada sbagliata quella che sto percorrendo, per come mi sento io. Adesso, se riesco a trovare al volo, bevo un po' d'acqua, scusate, ma è un po'. Non è facile per me. Allora, adesso su questo provo a leggervi, sempre dal I Believe in Europe, che appunto è questa raccolta che, dove ci sono tante cose, diciamo, dove ci sono piccoli saggi, piccole poesie, pensieri, che adesso spero di riuscire, eccolo qua, a catturare. Sul noi. Ecco, noi diamo la nostra luce, siamo il sole che illumina le nostre volontà, armiamo di piacere il nostro sapere, apriamo di regali i nostri occhi, beviamo dal nostro calice la pioggia dei nostri desideri, soffriamo le nostre debolezze, temiamo la nostra gioia come impossibile. Possiamo sopportare la nostra felicità? Come? Come possiamo sopportare la nostra felicità quando lei è ancora figlia delle nostre paure, dei nostri dubbi, delle piccole miserie che abbiamo coltivato, dei nostri errori? Come? Come possiamo sopportare questa felicità? Lasciare che si impossessi di noi, che diventi noi, quando noi e solo noi sappiamo quanto le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre miserie, i nostri errori sono compagni dolorosi ma fedeli. Quale altra fedeltà può vincere questa fedeltà? La nostra fedeltà può vincere questa fedeltà. La nostra fedeltà in noi stessi può vincere questa fedeltà. Visti i tempi, un momento di... Non funziona la cifra. Sta andando, infatti mi sembrava, infatti, dovevate... È truccata, Allora lì un patto, voglio dire, proprio karmico, cioè il tempo si è fermato, non è dipeso da me, come potete, avete visto? E il fatto, bravo, è un miracolo, possiamo... Allora. Comunque, beh, un attimo di pubblicità, allora, a questo punto. In fondo al bosco apparve all'improvviso in una radura una casa. Aveva il tetto di cioccolato, le finestre di marzapane, i muri costruiti con tronchi di torrone e col tiramisù. Non pensai neanche per un attimo di avvicinarmi. So bene dove vanno a finire certi castelli incantati. In una gabbia vanno a finire, sicuro. I miei piedi mi comunicarono che non riuscivano più a proseguire. Guardai in basso. Una marea di miele stava salendo. Ero finito nel greto di un fiume, il classico fiume di miele. Aiuto! La corrente mi trascinò via. Ingollai litri di miele prima di venire sbattuto sul fondo di una cascata di latte tra rocce fatte con zucchero di canna. Svegli da tanta dolcezza. Lo zucchero ormai era sciolto. Bevi il caffè, pagai, uscì. Molto buona come. Era buono il caffè. No, buona la poesia, è buonissima. Era buono il caffè. Va bene. Non so, mica. Io no, i tempi. Abbiamo ancora, direi, 20 minuti? Oh. Sì. No? No. 5 minuti, mannaggia. Allora ci chiude la. Poi anche finire. No, beh, 5 minuti, no, aspetta, no. Perché ho preso anche quella per i piccoli minuti, visto che dovevo fare. Quindi diciamo che c'è anche quella gialla dei 5 minuti, perché sempre per voler essere un po'. Funziona come l'altra. Non lo so, adesso vediamo, non lo so, adesso lo giriamo. Comunque ho piacere che si sia fermata, cioè questa cosa veramente non è che mi dispiace, non è che... Avevo portato anche la campanella per la Franca, che so che mi piace dare i tempi e ce la vedo molto bene con la campanella in mano. Allora, magari allora provo un attimo. Ecco, diciamo così, il secondo incipit, questo invece torniamo al diario fantastico, di cui poi vi svelerò un'improbabile copertina, o comunque un probabilissimo, perché già presente nell'edizione che io chiamo Deluxe, quella appunto doppia, le cui 300 copie adesso andate via, ma quello è un, pagate da me, quindi non è stata una cosa che qualcuno mi ha pubblicato, anche perché quando ho pensato devo andare a dire a uno che mi deve fare un libro doppio, l'ho poi trovato, ma non è un editore. Sono le 7 di mattina e Nicola ancora non arriva. Certo, la barca è già pronta, la vedo, legata al ponte di Sant'Andrea come d'accordo, ma il motore, dov'è il motore? Penserà mica che mi voglio fare un giro nel delta del Po solo con i remi? Ah, eccolo finalmente. Ciao, cominciavo a preoccuparmi. E il motore? E qui, stai tranquillo. L'ho messo ieri sera nell'androne del teatro. Aspetta che suono al custode. Non serve, sta arrivando. Buongiorno Berton, tutto a posto? tutto a posto un cavolo, ma lei sembra a caso di andare da solo a fare un giro nel delta in barca, c'è mai andato? No, non ci sono mai andato. Ecco, io vi saluto con questo non ci sono mai andato, poi ci sono andato e un amico anche mi ha fatto questo bel disegno che mi ritrae mentre comincio ad andarci, mentre qua Berton e l'altro mio amico mi salutano, diciamo, e questo è veramente il Canal Bianco di Adria, appunto il paese di mio padre, questo è il teatro di Adria e questo sono io, o siete voi se andate dove non siete mai andati, e questo ve lo può dar solo l'immaginazione. Vi saluto. No, me lo prendo. Questo me lo ritiro a questo punto. Ecco, poi dopo. Ripartiamo? Pronto? Sentite? Sì, bene. Allora siamo qui con Marinella Chielotto e Marina, vero? Sì. Marina mi ha detto adesso, temo di essere una palla dopo la performance di Enea, però non c'è problema, anche perché non credo proprio una che si occupa di bambini, che scrive per l'infanzia, sicuramente non può essere una palla. È una passione, immagino, che coltiva da tanto tempo, questo ce lo dirà lei presentando i suoi lavori e le sue opere, che hanno anche un fine pedagogico, mi sembra. Sì. Ecco, un fine a fin di bene, possiamo dire. Ecco, Marina, ci vuoi presentare le tue opere? Sì, allora, buongiorno, sono molto emozionata, non sarò disinvolta come chi mi ha preceduto, infatti l'ho detto. Scusate. Va bene? Ti si sente? No. Come prima? No, meglio. Meglio? Scusa, sì. Allora, lo ripeto. Io ho iniziato a scrivere da sempre, cioè ho iniziato a raccontarmi fiabe da sola, Poi chiaramente proseguendo ho iniziato a raccontare ai bimbi a cui insegnavo e ho avuto il tempo di dedicarmi alla scrittura quando sono andata in pensione, perché prima famiglia, lavoro eccetera eccetera mi hanno un po' impedito il tutto, anche se ho sempre continuato a scrivacchiare qualcosa. E appunto andando in pensione ho partecipato ad un concorso del Carro delle Muse e ho vinto il primo premio con una fiaba. Da questo è un po' partito tutto quanto, perché ho preso un po' di coraggio e mi è stata fatta una proposta molto interessante di scrivere una storia che parlasse della malattia oncologica pediatrica. Un libro che raccontasse la malattia, che raccontasse la guarigione, che raccontasse la cura, che raccontasse anche la morte. E non è stata una cosa semplice da fare, però alla fine è nato il Coraggio di Chibo, che è il libro praticamente di cui sono più orgogliosa. È stato pubblicato dalla Peter Pan, non è in vendita, però è girato parecchio, perché in effetti parla di questa bambola che si ammala e chiaramente anche la sua padroncina la segue. Quando ho presentato questo libro, sono entrata di nuovo in contatto con un'amica con la quale non ci sentivamo da parecchio, la quale aveva letto questo libro e mi ha chiesto, questo è un album illustrato, la quale mi ha chiesto se me la sentivo di scrivere la storia di una persona a lei cara. Quindi dal racconto sarei dovuta passare al libro e ho deciso di accettare un po' questa sfida e ho scritto la storia, che è questa, che briciola sull'avanzale, che è la storia di una donna altoatesina nata negli anni 20 e vissuta anche a lungo, perché appunto passa dal caressino al telefonino, insomma, no? Perché è un arco di vita che è notevole. E io non ho conosciuto questa Lisa, come si chiama l'interprete, il personaggio principale, non l'ho conosciuta, però mi è stata raccontata appunto da chi l'ha voluto molto bene, si è raccontata lei stessa attraverso una specie di diario, cronaca, attraverso delle lettere molto, molto belle e attraverso dei disegni, delle ricette. Diciamo che ricostruire la vita di questa donna, io l'ho sempre paragonato al fatto di dover cucire un abito, avere della stoffa, poi ad un certo punto quando la stoffa non mi bastava più ho dovuto aggiungere la mia. Per cui ho intrecciato la realtà al vero, alla verosimiglianza, alla fantasia, intrecciando tutto in modo che poi non si distinguesse l'uno dall'altro. Quindi diciamo che è una storia vera romanzata. E la prima cosa a cui ho pensato è stata come impostare il libro di modo che non che risultasse abbastanza leggero da leggere, perché la storia era piuttosto pesante, per cui l'ho suddiviso in una Lisa di oggi, già di una certa età, con una vita alle spalle molto pesante, però ancora piena di voglia di vivere, di curiosità verso il mondo, e che ancora suona il pianoforte, che legge, che prepara dolci, che è molto attiva, che si circonda di amicizie, ed è scritta in prima persona, che parla di se stessa, e poi una Lisa dello ieri, invece in terza persona, dove si svolge la vita, ci sono vari accadimenti, la guerra, eccetera, eccetera. A suddividere, a inframmezzare questi due, questo oggi e questo ieri, ho messo un personaggio, la donna dei fiori, immaginandola come una specie di strega, di sciamana, che ha una conoscenza delle piante che non è solamente quella curativa, ma anche significato di un fiore. E vi faccio un esempio. Queste piccole frasi sono tra l'oggi e lo ieri e servono ad introdurre il capitolo che viene dopo, se mi sono spiegata, spero. Comunque, la donna dei fiori, leggo per far capire. La piccola Hexe di Blumau, mia maestra silente, lei che ho sempre chiamato donna dei fiori, mi ha detto: conosci le pervinche? Portano un mazzolino e posalo accanto ai fiori più costosi. Accompagneranno tuo padre nel suo viaggio e aiuteranno te nel serbare di lui un ricordo dolce. Ecco. E questa si ripete per ogni quando i capitoli cambiano. Posso fare qualche domandina? No? Vado avanti. Vai, tranquillami. Ecco, allora, comunque dicevo, la storia di una donna altoatesina, di ottima famiglia, benestante, infatti lei possiede un pianoforte in casa, l'insegnante che va a suonare il pianoforte, che le insegna a Nolcalessino, insomma una famiglia poi oltretutto anche molto affettuosa, molto ricca di sentimento, e queste basi praticamente le daranno poi, saranno le sue fondamenta come persona, no? Per affrontare tutto quello che poi le capiterà, perché le capiterà un po' di tutto. È un libro introspettivo? Sì, beh, racconta, è un libro, diciamo, per farla, volevo dirlo alla fine, però in effetti è un libro sulla resilienza, che si usa adesso molto come parola, no? Però in effetti questa è una donna resiliente, le succede di tutto, però lei trova lo stesso, a parte nella grande fede che ha, insomma, trova sempre la forza di reagire e di proseguire il suo cammino. Io potrei leggervi un brevissimo pezzetto della Lisa di oggi, che è l'inizio poi del libro. Quando mi guardo allo specchio, osservo il mio viso. Quasi con negligenza nel suo riflesso, noto le strade che la vita mi ha fatto percorrere e che hanno cesellato il mio volto. Ora che passeggio verso i molti anni, mi trovo bella. Un ossimoro nella mia gioventù, vecchiaia e bellezza. Ma amo ciò che sono diventata e finalmente nella vita ci sto a mio agio. Racconterò qualcosa di me, qualcosa di Lisa, voglio che ne rimanga traccia. Voglio che rimanga un acquarello della mia esistenza, un'armonia di pensieri che resti a circondare le figure che hanno reso ruvide o lievi le salite e le discese del mio cammino. Desidero troppo. Distesa nel mio letto di cirmolo, sento l'odore freddo e alpino della resina. Lo so e lo sento che, vago e odoroso, regala la sua essenza per farmi respirare meglio i racconti inquinati della città. Volgo un pensiero amoroso a tutti i miei cari. Ho lasciato, come al solito, delle briciole sul davanzale. Posso andare a dormire tranquilla. Buonanotte, signore, e veglia su di me. Ecco, come dice la... Alla Via Vincis, un po' al mio cuore, effettivamente c'è molto sentimento, quello che si avverte. Infatti. Rispecchia un po' l'animo dell'autrice, sì. Sì, diciamo che... Il sentimento conta molto. Sì, il sentimento conta. Ho cercato di esprimere le emozioni di questa persona, chiaramente mettendoci anche le mie. Ho dovuto entrare nei suoi panni perché lei è una persona molto religiosa, io invece non sono credente, per cui è stato importante scrivere di lei, insomma. Mi ha dato stato anche un esame di coscienza, in un certo senso. E perché no, sì. E hai cambiato idea sulla religione? No. No comment. No. Ecco, vuoi restare su questo libro o vuoi parlare un po' dell'infanzia, dei ragazzi, del sì, questo chiaramente è quello più recente. Proprio, sì, sì. Ma anche di cui sei più orgogliosa? Sì, sono beh, e tutti sono orgogliosa, perché quindi non possiamo chiamarlo romanzo, ma è un racconto. È un vero, sì, è una sì, un racconto romanzato. Sì, è una vita romanzata, una vita reale. E però voglio leggere una cosa così. Sì. No? Mi intristisco un po', no? Beh, dopo se ti intristisco dopo è vero. Posso farle una domanda? Mi dica, certo. Il primo libro di cui lei ha parlato, sì, che riguarda la malattia, sì, oncologica nei bambini, sì, è stato ispirato da fatti veri? No, allora mi è stato chiesto dalla psicologa che seguiva i bambini all'ospedale, la psicologa Mondi Montecchi, e dall'ex bibliotecaria della biblioteca Oltre l'Handicap, che avevano questo progetto perché non trovavano un libro adatto ai bambini che entravano all'ospedale all'improvviso, perché poi in effetti sono andata a parlare all'ospedale, ho visitato il reparto, ho visto insomma tutto quello che è un mondo a cui magari non ci si pensa se proprio non si entra a contatto, no? Magari con le persone adulte è diverso, quando si entra in quello dei bambini diciamo che prende veramente il cuore. Per cui esperienza diretta no, però sono andata proprio a vedere i bimbi, a vedere come tutto l'iter, no? Infatti l'idea di usare la bambola, no? Che si ammala è nata perché la psicologa mi raccontava che questi bimbi, tutto quello che veniva fatto a loro durante le varie terapie, poi lo facevano al loro sacchiotto, al loro peluche, alla loro bambola, rifacevano, mettevano un cerotto, curavano, ripetevano il tutto. Allora da lì è nata l'idea di mettere una bambola come protagonista. E dietro poi al libro ci sono anche le esperienze, ci sono i bambini, i guerrieri coraggiosi che raccontano come affrontare la malattia, che raccontano tutto quanto, le emozioni che provano, che cosa sono, che cos'è la chemioterapia, lo spiegano con le loro parole. Sì, per quello. Più che mai attuale. Proprio oggi ho sentito un servizio dalla Terra dei Fuochi in cui denunciano casi di tumori nei bambini a Bizzeffe, più che mai attuale. E la grande soddisfazione è quando poi magari Mandy mi chiamava per dirmi: guarda che ho sentito questo bambino, questa bambina, hanno detto ma questa sono proprio io, è quello che è successo a me, questo è stato molto... molto soddisfacente, insomma, no? Perché vuol dire che ho... Signora Ripendoni, lei nel libro che ha citato prima, non questo ma quello precedente, in fondo ha letto un paio di righe, me le rilegge per gentilezza? Dove c'è un signore di mezzo? Ah. Legga, per favore. Allora, volgo un pensiero amoroso a tutti i miei cari. Ho lasciato come al solito delle briciole sul davanzale. Posso andare a dormire tranquilla. Buonanotte, signore, e veglia su di me. Signore, sono i vicini di casa? No, no. Il Padre Eterno. Signori, sì. Ma se lei non crede, in quale Padre Eterno, in quale Dio Signore che crede? Ma io in questo libro sto parlando di una persona molto credente. Per cui ho dovuto per forza. E parla della protagonista. Sì, sì, sì. Esatto. Mi chiedo scusa. Va bene. No, no. Va bene. Voleva ancora leggere qualcosa, vero? Sì, se riesco a trovare la pagina molto volentieri. Mamma mia, figurarsi, la trovo adesso. Mamma mia. Poi ci sono questi altri libretti che anche sono per bambini, anche questi fatti con un team, una psicologa Ixi, e parla dell'inserimento di un bimbo sulla carrozzina nella scuola materna. Qui parla il secondo, parla della scoperta del quanto è bello stare insieme, della scoperta poi anche dell'essere maschio o femmina, e questi sono dei libri nati come libri simboli, però io ho portato in entrambi la versione alfabetica, cioè sia la versione alfabetica che la versione in simboli, sulla quale non mi dilungo, ma è anche molto, molto interessante. I libri di Ixi, leggo veloce, finito? O posso leggere? No, puoi leggere, c'è. Leggo l'ultimo pezzetto. Praticamente qui Lisa è tristissima. E lei ha avuto una tata a suo tempo che l'ha molto supportata. Di questa tata ha conservato un'ultima lettera, no? Prende questa lettera quando proprio lei non ha quasi più voglia di vivere e la legge. Cara Lisa, non dobbiamo fare troppe cose nella vita, dobbiamo solo rispettare e ricordare quella parte di infinito che alberga dentro di noi. Ne abbiamo una briciola nascosta da qualche parte e prima o poi deve tornare al tutto. Non piangiamo troppo per chi se ne va, non usiamo il dolore per noi, cerchiamo di dare il legittimo spazio al lutto e al dispiacere senza farci travolgere o dominare. È giusto che ci sia il dolore come è giusto che si allontani. Mia cara, mantieni la gioia di vivere, usala per sentire chi non c'è, nell'odore del vento, nel colore di un'alba o nella piuma di un pettirosso. Ricorda Lisa che l'amore supera le barriere del tempo, perché anche lui è una parte dell'infinito che ci accompagna. Tua Trudy. Terminata la lettera, finalmente arrivò il dolore buono. Bene, sì. Grazie. Un po' di musica. Aspetta. adesso lì la scheda si parla. Questa è vera. La tua non me la mando. Non ti serve questa? No, quella c'è bene. Tu presenti poesia? Sì. I miei libri sono già fuori, sono tre qua, due là. Allora siamo a Giorgio Dalpiai, che definirei un'istituzione. Di che cosa? Della città, per la tua veramente molteplice attività nel corso dei decenni. Sei stato sulla breccia per tanto tempo come commentatore, speaker, attore, insegnante di dizione, cioè potrei continuare l'elenco. Sei arrivato a scrivere poesie. È un punto d'arrivo importante per te? Non credo che sia importante, ma penso che chi sa scrivere dovrebbe scrivere da sempre, da quando comincia a ragionare sulla poesia, soprattutto se le ha studiate, se le ha inseguite nel periodo scolastico, soprattutto nelle scuole superiori, quando te le facevano leggere. Oggi come oggi non si trovano molti ragazzi che sappiano ripetere qualche verso dantesco, assolutamente. Questa poi è stata una spinta, non so perché, ed è durata un periodo nel 2016, anche prima naturalmente, ma nel 2016 c'è stata un'esplosione legata a fatti, avvenimenti, personaggi, avvenimenti storici, ricordi e via dicendo. Di punto in bianco la vena si è inaridita completamente. Poi ogni tanto riprendo, ma non è più come quel periodo che va dal fine 2015 e tutto il 2016, una cosa incredibile. Le ho datate tutte, tra l'altro, le ho datate per far capire che non sto dicendo delle panzane. Hai capito, Silvano? Quindi la vena è esaurita adesso come... La vena come tale è esaurita. Mi auguro che torni, perché vedrò se farmi una cura da qualche parte. Ma... cercare qualche altro giacimento, magari. No, ma non credo che... Dipende da come riesci a trovare un avvenimento, un personaggio, un fatto, un accadimento che ti possa solleticare, sia per essere cronista, sia per essere storico o critico nei confronti dell'avvenimento e dei personaggi che lo hanno sviluppato. Ecco, tu sei diventato mitico a Bolzano per Sonia Voltran, un bellissimo libro di ricordi, no? Sì. Ecco, e che differenza c'è tra scrivere un libro di quel genere e scrivere una poesia invece? Io per esempio non lo so. Che nemmeno io te lo posso dire, però immagino che Sonia Voltran è una vita che io ho inseguito dai 5 anni fino ai 14 anni. 5 anni ero a Bolzano, non abitavo le semirurali, però la mia famiglia, mia madre, che poi è morta immediatamente dopo, quindi sono rimasto orfano completamente, avevo una sorella che mi ha cresciuto e che, guarda caso, ha compiuto 100 anni e un mese. In Baggio, 100 anni e un mese, sono tanti, davvero tanti. Però il periodo che io ho trascorso, un periodo nel quale alle semirurali abbiamo fatto la conoscenza di tutti i popoli che sono arrivati a Bolzano, naturalmente italiani, arrivavano da tutte le province e da tutte le regioni. Era gente che ovviamente soffriva la lontananza dal paese natio, dal luogo di nascita, soffriva la fame, soffriva il freddo, soffriva tutto quello che poteva esserci. Bisogna dire che l'allora Istituto Fascista delle Case Popolari aveva costruito un quartiere veramente importante, nel quale ciascuno, se faceva domanda e se faceva notare che il nucleo familiare era piuttosto consistente, aveva la necessità di entrare in un appartamento piccolo, stanza, cucina, cucinino e bagno 70 centimetri per 70 centimetri. Però c'era poi delle vie talmente disegnate, ben disegnate, delle vie, perché si chiamavano semirurali perché ogni famiglia aveva un pezzo di terra o in fianco alla casa o dietro la casa per seminare quello che poteva seminare, che voleva seminare, e per coltivare, per esempio, dal radicchio all'insalata fino ai pomodori e via dicendo. Certo. Sì, sì, sì, è stato importante perché durante il fascismo, è stato importantissimo. Poi tra l'altro c'era un libretto come coltivare l'orto. Certo. La poesia poi ti arriva di conseguenza, devi studiarla la poesia. Non so se Manzoni, Leopardi, Pascoli siano nati poeti. Sicuramente sono nati con la voglia, con il desiderio di visitare la cultura che era terminata alle loro spalle e che comunque hanno potuto prendere in considerazione. Che tipo di poesia è la tua? Ad esempio, io amo la poesia tipo, che so a memoria, San Martino, la nebbia di Ticoli, è troppo bella perché uno si immagina questa giornata autunnale, no? Però questo è un tipo di poesia. Poi c'è una poesia magari più introspettiva, tipo La signorina Felicita, no, di Gozzano. No. Non ho introspezione di questo tipo, assolutamente. È una poesia di verifica. Ti accorgi di questo, di quello che sta accadendo, del personaggio, di come Bolzano è diventata la Bolzano, partendo da Bolzano, Bolzano, Bolzano, e via dicendo. Quindi una poesia? Non ho capito. Bolzano era l'antico nome. Sì, poi Bolzano, questo ancora prima. Ah, prima ancora? Prima ancora, sì. Io sono partito da Bolzano, fermandomi lì, perché l'ho letto, non tanto perché lo sapessi. A 5 anni non si poteva sapere quello. Ecco, quindi parli di Bolzano nelle tue poesie. Parlo anche di Bolzano, sicuramente. Ce le vuoi leggere, magari. È storico. Sì. E poi mi sono innamorato, facendo il liceo, di Dante Alighieri, sicuramente della Divina Commedia. La Divina Commedia andrebbe letta e ripetuta in continuazione, e ho cercato di rendermi coetaneo di Dante e ho provato a prendere in considerazione l'inferno, che è quello che ti solleva, ti fa bollire il sangue, l'inferno. Ad un certo momento sono passato attraverso i canti dell'inferno facendone altrettante rimarcature, se si potesse dire, rimarcature, mettendo insieme per esempio i primi 5 capitoli, i primi 5 canti della Divina Commedia e facendone una poesia sola. Ho questa che potrebbe servire ai giovani che nascono e non sanno come comportarsi. Vita nuova o nuova vita. Come sbuca dall'utero materno, l'uomo vuole da tutto il mondo ascolto, pretende come un re di essere accolto e invece sei infilato in un inferno. La madre, che ha sofferto gran dolore, lo accoglie con le braccia spalancate, attorno a lei, con ansie soffocate, 2 donne, le comari e il genitore. Quando sapete il pargolo del fatto, sospira concordando i suoi pensieri, si chiede se non stesse meglio ieri, prima che questo mondo avesse impatto. Ancor non sa rispondersi l'infante, la vita incominciata non soddisfa, non vuole che il bocciarlo infastidisca, si tolgano di mezzo tutte quante. Si riferisce, è chiaro, alle comari che annoiano cianciando coralmente, la smettano, capiscano che lui sente e già le paragona a dei somari. Quietato quel vociare fastidioso, l'ometto si addormenta e va sognando quello che percepiva navigando, il canto della mamma, melodioso. Da allora inizia il crescere normale, ci vogliono anni, e il bene più totale, il puffo, diverrà nel mondo umano un inqualificabile ruffiano. Si troverà a confronto, è naturale, con tipi d'ogni risma, in tanti casi, dovrà saper distinguere ciò che vale da quelli che parlano degli evasi. Potrà conoscere degli imbrogliatori meschini che ingarbugliano la gente, prodotti socialmente abusatori ed individui che non valgono niente. Dipende da quei 2 che l'hanno prodotto. Ma sappia che il sociale è un'altra cosa, vi troverà, chissà come cos'è la stima, persone che non amano la posa, che odiano chi inquina il social clima. Dipende da quei 2 che l'hanno prodotto, dipende da una sana educazione. Se il giovane rifiuterà il corrotto proporsi di una vita di illusione, si voglia salutare chiunque incontri, non eviti l'aiuto a chi lo chiede, si astenga dal provocare banali scontri, schivi chi è finto amico in malafede, scopra che intorno al 1500 un monsignore in grado di educare diede alle stampe e fece divulgare il galateo di comportamento. Oggi quella che un tempo era creanza non si usa più, lo sanno le famiglie, e sembra prevalere l'intolleranza espressa sia dai figli sia da figlie. Quando nascendo urlò che era qui giunto, di questo mondo non immaginava la dimensione estesa, il disappunto e tutto ciò che in orbita girava. Ora è cresciuto e quel momento è giunto, è tempo che raccolga seminando, che faccia di ogni azione un bel riassunto, che affronti il divenire comunicando. Molto bravo. Vado in fretta così sto nel tempo. Se l'amicizia è fatta di pretese, se per voler l'amico fai di più. C'è un titolo? Sì, se l'amicizia. Voglio metterlo in fondo. Se l'amicizia è fatta di pretese, se per voler l'amico fai di tutto, se senza quello sai restar cortese, non invidiare chi può avere il frutto di ragionare pacifico e tranquillo, senza l'angustia d'essere dovunque ti chiami l'amicizia, con l'assillo di presenziare sempre e anche comunque. Amministrare sul serio la brigata fa parte di un impegno con l'appanno. Nessuno può giurare che sia scontata la citazione priva dell'inganno, anche se è vero che diventa amico colui che sa distinguere questo e quello. C'è sempre il truffaldino di mestiere che sa proporti ciò che vi è vietato e ti convince. E infine c'è l'allocco, che abbocca come un pesce impreparato. È qui che il finto amico si palesa e tu t'avvedi da che sia divisa la tua credenza in ciò che era tranello. Allora, titolo di quel fondo. La prima volta dopo il loro regno ci fu la convenzione dei sovrani. Non per me, per voi. Infatti. Ecco, chiudi, perfetto. La creanza. La prima volta dopo il loro regno ci fu la convenzione dei sovrani che dalla fondazione, grande impegno, mai s'erano conosciuti fra compagni. Romolo capeggiava i successori, Pompilio, Ostilio, Marzio e Servio Tullio, Tarquinio Prisco, e poi l'altro, il Superbo, videro fra loro, sconosciuto, uno straniero, sedeva, spiritoso. Rideva il bell'imbusto e sghignazzava guardando gli adibiti convenuti. Fare l'appello a Romolo toccò come si usava già nei tempi andati. Contò per due e gli sfuggì un oibò. Scusate, miei colleghi, ma non so per quale arcana storia non mi torna l'otto che qui ho contato con la ciurma. Ricordo che fui primo e mio fratello, che vi lamenterete, detto Remo, lasciò che numerassi i sette colli, perché dopo di me su quel terreno sarebbe sorta Roma capitale. Sarebbero arrivati in generale Sabini e dopo i greci anche i troiani. Ora che siamo riuniti qui per caso, soltanto sei di voi io riconosco, ma c'è qualcuno forse fuori posto. Io non l'ho visto mai da queste parti. Ditemi voi, colleghi, se sapete chi esser può quel tizio là seduto. Io sono un tizio, disse lui di botto, che qui regnò prima che voi veniste. Il nome mio non dico, e scoprirete quale cultura ebbe il popolo mio. Noi siamo originari della piana che a nord s'allaga, terra dei Normanni, la stessa che per voi sarà padana quando la finirete di far danni. In quella terra d'inventori puri, abbiamo messo in opera sicuri macchine che da voi sono ignorate, ma che saranno gioielli nei futuri bisogni delle genti d'ogni dove. Abbiamo anche una pista per le prove, lungo la quale i mostri a quattro ruote sono come un lampo e tutta l'aria scuote. Qui l'invenzione che mi dà importanza è un gioco che si adopera guidando. Le ruote fanno la curva e ritornando vengono da un marchingegno raddrizzato, così chi guida sa e più non temi di incidentare l'oggetto nell'insieme. La gran pensata cultura del mio fare sarà in futuro la forza del legame, ed è per questo fatto che le genti che governai nel tempo intelligenti diedero a me il governo di quel regno che voi non conosceste come segno di gran civiltà, e non è scherzo, vollero incoronarmi se è posterzo. Bello. Se è posterzo. Quando si rimane lì con insonnia, dice cosa mi invento. Sfogliando delle rime in un cassetto, confuse con proverbi ed aggettivi, ma vidi che talune per dispetto dava la colpa a quelli d'essere privi del senso d'eleganza e del rispetto prestato a tutti e in primo luogo ai vivi. Attesi che finisse quel confronto per far sentire ad esse la protesta, ma il mio ridir non fu sì tanto pronto e le villane alzarono la testa. Urlai: silenzio! Usate del criterio, rime male create e senza peso. Sappiate un po' distinguere ciò che è serio. Chinatevi, umiliate a chi si è offeso. Zittirono, vi giuro, in un balino. Piangevano e mi porsero le scuse, quelle non rifiutai. Ero sereno. Richiusi quel cassetto. Erano confuse. Rime arroganti. L'ultima, no, però qui va bene. Bolzano, Bozzel, Bolzano. Le strade tracciate tra cime montane per far che le armate coorti romane avessero sfoghi per ogni conquista, seguirono luoghi ancor bene in vista, con siti marcati, preziosi reperti che danno alla storia, se sono scoperti, momenti di gloria, grandezza agli esperti. Negli anni d'inizio del secolo I toccò a Livio Drususo segnare un tracciato, varcare confini, congiungere regioni, portare le legioni di Roma sovrana dal Brennero a Resia e all'area germana. Rimase arcinota e ancora è robusta la via dedicata a Claudia l'Augusta. Legava gli Elvezzi con l'area del piano, fu usata dai Letti, del Pedemontano, per dare più spazio all'area vitale che dopo 1000 anni è un ben naturale. Quel popolo vive la piana ubertosa che slarga maestosa tra cime a contorno in fondo alla valle che oggi è Venosta. È un quadro, una posa gradevole attorno. Non so se la storia che allora taceva ci sappia svelare che cosa accadeva tra quelle contrade. Ci narra un racconto che intorno al 600 del secolo passato, mancando la gloria lontana nel tempo, si amava una vita dal semplice andare di gente che unita sapeva badare a un bene crescente. Non c'erano gioielli né l'oro montano, ma rape e piselli donavano al piano che loro nutriva l'aiuto che al grano negli anni serviva. Mutare sementi negli anni bisesti toglieva tormenti ai poveri agresti. Quest'area sognata, arata, abitata, nel tempo seguiva un corso vitale, così che gli umani formati alla tempra ad un ritmo annuale, ai rischi un po' strani di un mondo reale, guardarono attenti. Un borgo composto di poche magioni si evolse in decenni di alterne stagioni. La piana congiunta a valli in declino divenne la punta di un grande destino che avrebbe nel tempo creato pian piano l'odierna provincia novata Bolzano. La vita moderna va fiera e caudente di ciò che il passato ha reso al presente. Due guerre maligne vissute e lottate stravolsero invece campagna e brigate. La prima di queste, legata ai confini, finì col piacere ai soli vicini. Caduto, ceduto fu il suolo dei popoli andati, si strinse il Tirolo. E per gli invecchiati che avevano negli anni creduto alla pace, ci furono gli inganni. Già, vince chi tace, fu il motto sociale coniato ed espresso nel Dir Generale. Urlarono tutti. Tant'è che su Roma, che mai dopo i grandi di un tempo passato fu urbe padrona, squadristi anneriti di stoffa in orbace cambiarono la storia per buona memoria. Qua e là, sul confine preteso ed imposto, fascismo ed impero decisero il costo. salato per quelli, goduto dagli uni, mutarono nomi persino ai comuni. Benito decise lo strangolamento, le nere divise salirono da Trento, sicché su Bolzano, non c'entra gli dèi, lasciarono la mano a un tal Tolomei. Scomparve da Tito nel centro atesino, la talica lingua lo ia ben nutrito. Le scuole parlavano l'idioma di Dante, ma non l'apprendeva nemmeno un infante. Trascorsero tempi di guerra totale, Bolzano fu invasa, perfino lo stivale sudò tempi scuri, subendo la marcia di loschi figuri spediti in Italia da Adolfo in persona. Voleva che Benito, figura fiaccona, sparisse dal mondo, sbiancasse l'icona. In fondo alla storia che qui percorriamo, diciamo a memoria, rivista Retroso, che dopo il passato, che fu tempestoso, possiamo prevedere che un giorno rabbioso può sempre spuntare. Ci fu chi ci impose la resa spremuta, chi volle cacciarci celando la faccia, facendosi ardito con bombe e tritolo, ma noi non reagimmo. Neppure uno solo rispose rabbioso ad astio e minaccia. La calma paziente ci diede ragione. Capimmo l'attesa di un popolo sano che qui risiedeva da tempo lontano. De Gasperi e Gruber, due saggi valenti, trovarono l'accordo, regnarono le genti che s'erano disposte agli adattamenti. Così i tirolesi, propensi al buon viso, compresero il gioco che avrebbe diviso, non proprio alla lira, quel tanto e quel poco che tutto chiariva. Lo scontro frontale prosegue tuttora. Qui s'usa a dir dame che vale signora. Noi spesso diciamo con molta pazienza che Hochdeutsch e dialetto fanno già differenza, ma li adoperiamo. E ciò che qui avvenne, sarebbe opportuno, venisse spiegato a chi ne è digiuno. Si dica realmente che genti diverse per ceppi lontani si videro perse in eventi balzani, subirono affronti di varia natura, ma furono pronte per doppia cultura, fin quando una pace proposta e capace fu presa a partito. Si dica fra tutti, rancore è svanito. Educativa, sì. È molto educativa, sì. Bravo. Cioè, non è offensiva, no. Va camminato bene. Se mi rurali, poi vi lascio in pace. Deciso avean gli edili del partito quale sarebbe stata la regione che avrebbe dato spazio e costruito un'altra Italia dentro la nazione. Negli anni tra il fascismo, Mussolini aveva promesso a tutti gli italiani che avessero voluto, entro i confini, portare la famiglia di cristiani. Laddove nuova vita li nasceva, avrebbero trovato già un domani proposto per un'era più longeva e per un avvenire tra i più sani. Dalle province antiche abbandonate si mosse ad agio un popolo silente, puntò diretto al centro, alle sanate terre della Pontina sotterranea. Furono prima tutte prosciugate le zone che ospitarono Sarottati, Veneti e Giuliani, per borgate che avrebbero negli anni rinsaldati quei vincoli fra popoli contigui, divisi in patria, ma poi ritrovati senza malignità e senza ambigui contatti tra fuggiaschi disperati. Latini del contado, mescolati coi veneti dal dire trascinato, produssero col tempo nuovi nati che avrebbero il linguaggio rinnovato, tanto che ai nostri giorni, fra i pontini, i vecchi che tramontano nel parlato, sono veneti del piano o sono alpini e i figli il romanesco hanno idiomato. La stessa sovrumana sofferenza spendevano altre genti al settentrione, calavano d'ogni dove con pazienza, da Como, da Torino, dalle zone da dove le famiglie numerose si erano proposte di trovare la vita, diversa, se non altro è con le pose giocarsi nuovamente una partita. Lontano dalla patria combattente per le conquiste d'Africa orientale, le leggi del partito convincente spostavano l'Italia in generale. Verso il confine vinto in una guerra fu reperito un sito contadino che venne confiscato in quanto terra per farne un centro, un segno del destino. Bolzano diveniva in qualche sito disegno di conquista dichiarata. Doveva un certo spazio pattuito prendere forma di città allargata. Si stabiliva che trattati uguali, case divise in 8 conversioni, strade asfaltate, orti padronali, conte cintate in legno, discrezioni, lavanderie, botteghe, sorveglianza, luci varie, piazza parrocchiale, avrebbero additato l'importanza per festeggiare in gloria il ventennale. Che nome poter dare a tanta stima? Negli orti che ciascuno coltivava nasceva un po' di tutto, come prima, anche se chi, pur bravo, primeggiava. Non erano masserie, ma molto uguali. Era città e non aveva aria. Potevano le mani essere passate. Perciò furono per noi semifurali. Giro perché c'era. Adesso vedo che ci sono anche degli insegnanti qui. Navigando l'italiano. Signora Francipagna, navigando l'italiano, lei che lo ha insegnato così bene nel tempo passato. Pletorico sta per esuberante, retorico è come dire enfatico, militico può diventare stupendo, come dogmatico vale perentorio, famelico è vorace e non saturno, pantagruelico è proprio smisurato, munifico largheggia ed ha già dato, ignifugo è un amico del pompiere, centrifuga ti aiuta e ti fa bene. Esteta è una persona in armonia, la sceta invece prega e così sia. L'anacoreta vive la sua vita, prega tacendo, è un santo, un eremita. Amletico è indeciso, irresoluto. Abulico è svogliato ed accioso, sintetico è succinto ed essenziale. Sarcastico è un ironico e beffardo. Teutonico è un tedesco d'altri tempi, dialettico se parla discutendo. Prospettico lo è se è fatto male, fanatico chi guida per giocare, benefico chi fa il provvidenziale, bioritmico il pulsare del nostro cuore, didattico se insegna il bel parlare, geometrico un preciso e razionale, chirurgico il dottor che fa morire, dispotico è soltanto un dittatore, botanico un giardino con le aiuole, orrifico che è meglio non guardare, enfatico un solenne parlatore, prolifico, paterno per 6 figli, termitico, protegge l'intestino, geriatrico, consiglio i centenari, pacifico, oceano, oppure tranquillo, sinottico, riepiloga schematico, erratico se è nomade ed instabile, mefitico è malsano e irrispedabile, irrespirabile, faceto, arguto, spiritoso, ameno, dogmatico all'aria categorica, ieratico, grave, solenne, austero, mutevole ed eccentrico, il lunatico. Basta. Grazie. Grazie per la sua professione, è inedita e quindi per motore singolare di qualità rimane nel suo cassetto. No, non è che rimane nel mio cassetto, ma io avrei pronto anche una serie di 130 poesie tipo queste da mandare all'editore, sempre che l'editore sempre che trovi i quadrini, sempre che trovi i quadrini, perché l'editore, ecco, l'editore ha già in mano questa occasione. Io ho fatto per 40 anni lo speaker sportivo per dare manifestazioni a tantissimi livelli, mondiali, europei e nazionali, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con carattere associazioni che mi chiamavano. Quello è in fase di breve, adesso sto aspettando che mi arrivino un po' di quattrini e poi li spedisco perché voglio i soldi prima di stampare. L'hanno mandato tantissimo. A proposito del semirurale, penso che tu sappia, o forse no, nella sua statale che va alla statale di Novanda. Non c'è problema. Non c'è problema, dai. Ma non c'è problema. Ma vogliamo scherzare? Arrivederci. Molto suggestivo, però oggi è occupato da... sono scappati quelli che c'erano. È lo stesso, dai. Sediamoci, perché ci vuole rispetto per gli scrittori. Certo. No, volevo farvi vedere, questa... si parlava di visibilità, no? Che è importante per noi dell'associazione. Certo. Io ho avuto fortuna che il mio editore avesse sempre coltivato i rapporti col giornale L'Adige, dove io ho cominciato la mia carriera di giornalista nel 72. Ecco, per cui è la seconda volta, ad esempio, che un mio libro esce col giornale L'Adige nel Trentino, c'è una pagina intera di pubblicità. Ottimo. E anche col primo libro, Il Carnet delle Tacche Spillo, per una settimana ha venuto trattato molto bene. E questo, uno dice, ma quando un libro esce con giornale a prezzo ridotto perde un po' di valore. Sarà, ma a me interessa la visibilità. Cioè, sono state vendute tantissime copie per quelli che sono i parametri almeno regionali, e quindi una grossa soddisfazione. Adesso, da sabato, c'è il nuovo, che è la salsiccia Abac, che devo ancora presentare, presento ufficialmente a Merano sabato prossimo al Museo della Donna, con parte finale di birra e salsicce, chiaramente. Allora vediamo. Certo, siete tutti invitati, quelli dell'associazione. No, volevo dirvi, l'anno scorso a Bolzano non ho ancora presentato niente. È uscito Carnet delle Tacche a Spillo, appunto, che poi è stato distribuito nel Trentino con l'Adige, e di questo libro faremo una fiction Rai, sia in italiano che in tedesco, adesso all'inizio del 2019, per la Rai regionale qui di Bolzano, di mezz'ora, non è un film vero e proprio, comunque è una fiction raccontata, la signora si racconta, è la storia di un insegnante di economia domestica nel corso del Novecento, in Pusteria, che ne passa di tutti i colori, perché arrivano gli italiani, poi arrivano i nazisti, poi tornano gli italiani, quindi è soggetta a un saliscendi linguistico ma anche gastronomico, deve imparare a cucinare in italiano, poi di nuovo in tedesco, eccetera. E si innamora poi anche della moda italiana, in particolare delle scarpe, dei tacchi a spillo, di cui fa poi collezione. Mentre quello che presento sabato, la salsicciata, nasce da una mia idea, a me piace molto la storia della gastronomia, e di... volevo scrivere la storia di Wüstel. Non esiste in tutto il mondo una storia di Wüstel. Allora dico, e mi sono messo alla ricerca, cioè, da Hot Dog di New York al Weisswurst di Monaco, al Nürnberger, eccetera, raccogliendo materiale, ho messo insieme questa storia di Wüstel, che è piena di aneddoti, di curiosità, non è una cosa banale. È una cosa come, per esempio, come mai... per chi suona la campana il titolo del Weisswurst di Monaco, perché non si sa se bisogna mangiarlo alle 11 o alle 12 a seconda del suono della campana. Oppure a Norimberga, i Nürnberg sono piccoli così perché dovevano passare attraverso le fessure dei portoni della città, perché chiudevano a una certa ora. Hot Dog si chiama così perché a New York pareva che girasse la voce, in primi tempi nell'Ottocento, che ci fosse carne di cane. nei würstel, perché in Germania nell'Ottocento si mangiava anche carne, se poi i würstel li facevano i cinesi, chiaramente il sospetto era ancora più fondato, no? Ho messo insieme questa storia, però dico, da sola non regge solo la storia dei würstel, allora l'ho aggiunta alla storia della birra, in particolare di una birra qua, la birra Forster, per cui avevo fatto già una ricerca, che è una storia anche appassionante. E ci ho messo dentro scorci di Belle Époque, nel senso che avevo fatto tutto uno studio per l'Accademia Italiana della Cucina, di cui sono uno storico ufficiale, sullo sviluppo turismo e gastronomia nelle Dolomiti, a Merano in particolare, nel corso del tempo dall'Ottocento in poi. Diciamo che la seconda metà dell'Ottocento è una parte della fantastica della storia nazionale e internazionale, che poi sfocia nella Belle Époque, no? Io la Belle Époque la faccio risalire alla nascita della ferrovia del Brennero, perché è quella che sblocca tutto nel 67, e quindi porta i turisti, porta i generi alimentari e roba di questo genere. Chiaramente ho detto scorci di Belle Époque, tra questo e birra forse ci stava meglio tra ostriche e champagne, però saranno meno nobili il würstel e la birra, però sono comunque buonissimi. E allora ho messo insieme questo libro, che è di tutto e di più, cioè un minestrone di notizie, curiosità, eccetera. In tedesco sarebbe Eintopf mit Würstel, però penso che sia anche simpatico da leggere, in questo senso che nessuno sa di questi retroscena. Ad esempio, poi vi spiego perché c'è la salsicciaba, c'è un Würstel Volkswagen a Berlino, è un currywurst che si mangia solo alla mensa della Volkswagen di Berlino. La salsiccia Abarth si chiama così perché a inventare il Berliner Hauswurst è stato il nonno di Carlo Abarth, quello delle macchine. E la cosa più curiosa è che una volta si chiamava la marmita, la chiamavano anche salsiccia, per cui tra nonno e nipote c'è un collegamento quasi surreale, no? Perché il nipote aveva chiaramente costruito delle marmite in particolare, e poi era un mago di motore. Quindi la salsiccia Abarth ha dato il titolo a questo libro qui, di cui vorrei leggervi, susciterà un po' di scalpore tra gli animalisti, ma io ho fatto nell'introduzione anche una nota dicendo che amo gli animali e che mi dispiace mangiare la carne, cioè sarei più felice se sapessi di mangiare una bistecca di un animale morto di morte naturale o di vecchiaia piuttosto che... Però quello che era triste di più e inorridisce è come oggi vengono allevati sia i maiali che gli animali, anche i polli, cioè senza spazio, sono cose veramente tragiche. Questo sì che è uno scandalo. E qui riporto tra l'altro l'esempio nell'introduzione di un ragazzo che ho conosciuto, giovane in Val Venosta, in un maso, che alleva maiali in maniera umana, se potete consentirmi questo termine tra virgolette. Lui cosa fa? Ha 6-7 maiali di una razza austriaca molto belli, e quando decide di, che per lui è arrivata l'ora fatale di diventare speck o salsicce, cosa fa? Lo allontana con molta discrezione dal gruppo, tanto si possono muovere, girare, sguazzare, perché sono liberi. Lo porta nel luogo indicato dove lo attende il macellaio o il veterinario, senza che si accorga di niente, anche i compagni non si accorgono di niente. Mentre normalmente i maiali, voi sapete, io questa esperienza l'ho vissuta in Germania, quando vanno al macello urlano da mani, perché sanno che vanno al macello. Questo è un dato di fatto. Invece questi non si accorgono di niente, perché fatto con molta discrezione, poi un attimo. Allora, non vi dilungo perché così, vi leggo invece, siccome ho fatto un capitolo, che a cui rimando già subito, ho perso una stanghetta, scusate, ma l'elogio del maiale, adesso pagina 183. Se hai uno in mente di quello dei miei. No, va bene, aspetta. Che ho intitolato Saugut, che in Germania vuol dire buono come una scroffa. E ho riportato anche un detto di Winston Churchill: I like pigs, dogs look up to us, cats look down on us, pigs treat us equals. Cioè, mi piacciono i maiali, i cani ci guardano dal basso in alto, i gatti dall'alto in basso, i maiali ci guardano all'altezza degli occhi. Allora, Poi ho messo qui anche un inquadrato sul Museo del Maiale di Stoccarda, e invece volevo leggervi quello che ha scritto un pubblicitario lombardo anni fa su un libro pubblicato dal mio editore che si chiamava De Porcellis, dedicato proprio al maiale, che ha vinto anche il premio Bordighera a quel tempo. Si chiama Gianni Carino, che scrive: quando il buon Dio si apprestò a ideare il maiale, fu preso da un raptus creativo altissimo. Lui, creativo fra tutti i creativi, come tutti i suoi colleghi d'oggigiorno, ha le sue massime espressioni in situazioni strane, insolite, spesso alternative o comunque diverse. Era quasi il tramonto e nel suo laboratorio il buon Dio stava ormai finendo di modellare degli animali quando gli venne voglia di farne uno di medie dimensioni, dalle caratteristiche ferine decisamente marcate, ma contemporaneamente molto simili a quelle umane, quasi un alter ego da cui l'uomo dovesse costantemente prendere le distanze per non confondersi con lui, ma nello stesso tempo da inseguire e concupire. Ecco, un animale da amare e da odiare, buono, buonissimo da mangiare, ma dannatamente negativo per la salute. Su quest'ultimo punto io non sono d'accordo, perché è stato dimostrato, ne parlavo con il professor Lucchini, che il maiale oggi, se allevato come Dio comanda, caso di dirlo, addirittura può fare anche bene. Ecco, io non vi dilungo perché ormai ne avete già sentite di colori, quindi vi rimando, vi aspetto sabato a Merano per la presentazione ufficiale. Poi di questi libri li presenterò anche a Bolzano, perché ancora a Bolzano non ho presentato niente. Al Museo della Donna, come l'altro, che è una bella location in centro, in pieno centro, e facciamo poi anche il buffet sotto nel portico, che c'è un porticato, un chiostro, quindi c'è una bella atmosfera, non è freddo, e con un po' di birra, un po' di gusto. È un libro, come scrive l'altro Adige, da gustare con la senape.